Dal 16 al 23 maggio torna la settima edizione del Festival 2030. Ne parliamo col direttore artistico Enrico Baraldi, che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Allora Enrico, per prima cosa ti chiedo proprio una battuta su che cos'è il Festival 2030, magari per chi non lo conoscesse. Certo, assolutamente. Festival 2030 è un festival di teatro. Da 7 anni oramai andiamo in scena a Bologna, all'Oratorio di San Filippo Neri, all'Arena del Sole, e da quest'anno anche in luoghi all'aperto. È un festival di teatro che è specificamente rivolto alla generazione di chi ha tra i 20 e i 30 anni, da cui deriva anche il titolo, no? Festival 2030. E in tutti questi anni, da quando il festival è stato creato, è stato fondato da Nicola Borghesi e poi con la mia direzione artistica successiva, abbiamo coinvolto centinaia e centinaia di ragazzi attraverso laboratori di teatro e li abbiamo portati in delle sale a loro abbastanza sconosciute, perché di solito i teatri sono percepiti come luoghi un po' distanti da una generazione, dalla mia generazione, no? Io ho 27 anni e i miei coetanei tendono a percepire il teatro come un luogo noioso, polveroso, distante, ingessato, e noi abbiamo cercato di invece raccontare una cosa diversa, fare una narrazione differente, e per farla appunto ci siamo dotati degli strumenti dei laboratori, di spettacoli fatti da compagnie molto giovani, e questa cosa fino ad ora ha funzionato. Poi c'è stata una pandemia, vediamo se siamo sopravvissuti come spettatori a questo momento strano. Proprio su questo volevo farti una domanda, perché insomma l'edizione di quest'anno si chiama Oltretutto e segna un cambio di paradigma proprio anche a causa della pandemia, no? Assolutamente, assolutamente. Oltretutto è proprio un titolo, diciamo, che abbiamo scelto sulla scorta di dei ragionamenti che ci portano a voler comunque credere che sia importante fare quello che stiamo facendo, ovviamente farlo in sicurezza, ma farlo in presenza e non online, come siamo un po' stati spinti in questi mesi, giustamente, di emergenza. Ma oltretutto questo momento storico, questa difficoltà, questa strana e allucinante, paranormale situazione, noi vogliamo esserci, andare di nuovo in scena. Certo, ecco, parliamo un po' degli appuntamenti, no? Si comincia il 16. Si comincia il 16, domenica, alle 20, all'Oratorio di San Filippo Neri, la storica casa di Festival 2030, che diciamo Miss Mound e Fondazione del Monte ci continuano ad affidare ogni anno, e io ogni anno mi chiedo perché lo facciano ancora, ne credono in noi, ma per questo li ringraziamo, con un finale di laboratorio dal titolo Esercizi di Futuro Semplice, che è uno dei finali di laboratorio. Quest'anno sono al centro del festival e questo è condotto da me e da alcuni colleghi, che sono Elena Lanzi, Marco Bino e Lucia Fontanelli, alle 20. La prossima settimana siamo a Dumbo, in uno spazio all'aperto di Dumbo, nel parcheggio, a dire la verità, di Dumbo. Abbiamo scelto uno spazio il più radicalmente distante da una sala teatrale per segnare proprio una rottura con la visione che avevamo in precedenza di voler riempire dei luoghi storici come l'Oratorio, come l'Arena del Sole, e andare verso un nulla, no? Andare anche lì oltre tutto, cioè oltre qualsiasi forma di teatro, e collocarci in un parcheggio. Quindi il tutto sarà allestito veramente in una maniera quasi piratesca, all'aperto, in realtà con tutte le autorizzazioni ovviamente che servono per farlo, tutto in sicurezza. Però i 3 spettacoli che presenteremo, il 21, il 22 e il 23, saranno collocati lì all'aperto a Dumbo. In scena ci saranno ogni sera un gruppo di circa 10 ragazzi che sono stati in residenza con le 3 compagnie ospiti di artisti e hanno partecipato a un laboratorio di una decina di giorni, e quello che andremo a vedere in quelle 3 serate sono gli esiti di questi laboratori, dove i ragazzi in scena si interrogano su se stessi, su alcune tematiche che gli artisti hanno proposto loro come centro di una ricerca individuale collettiva, per vedere un po' che tipo di immaginario possiamo avere oggi usciti da questo periodo storico. E questo sarà quest'anno il festival, quindi niente spettacoli, diciamo, surgelati 1 anno e mezzo fa e da scongelare ora che si può ritornare a teatro, ma creazioni nuove. Certo, e tutti gli spettacoli sono ingresso gratuito, però la prenotazione è obbligatoria. Io rimando ai vostri canali Facebook e Instagram Festival 2030, ma anche al sito festival2030.com. Grazie mille Enrico. E grazie a voi. Adesso non so come dire, perché voi teatranti siete superstiziosi, quindi dico merda, va bene? Merda, merda, se si può dire in radio diciamo merda. Va bene, diciamo merda, ok. Grazie, buona giornata. A te, ciao.